בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Buonasera, sono le 21 passate da 6 minuti, insomma qualche minuto più tardi questa serata in musica come sempre qui a Blu Radio Veneto. Questa è la voce di Agostino Spolaore che anche questo giovedì, oggi è un giovedì di maggio, il 23 maggio 2013, sarà qui presente fino alle 22.30 circa, minuto più minuto meno, per proporre l'ennesimo live acustico che è poi il fiore all'occhiello insomma di questa emittente. Noi facciamo questi acustici quasi, facciamo tre sere alla settimana, quantomeno, minimo, vero Maurizio? Quattro. Anche quattro. Anche quattro. Buonasera, però minimo, anche minimo sono tre. Anche cinque. Anche cinque. Anche cinque, dipende, però, dipende. Insomma, dipende. Avete sentito anche la voce di Maurizio Calzavara. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Ben ritrovato. Anche a te, grazie. Ecco. Tu sei sempre fortunatissimo, vero? Io sì. Perché sei sempre, come dici tu, nella fossa dei leoni. Hai la possibilità di avere sempre contatto diretto con l'artista. Questa sera abbiamo una femminuccia che ci viene da trovare da Roma. Romana di nome di fatto, ha scritto Maurizio nella recensione. Sì, però è romana di nome di fatto, però è cittadina del mondo. Cittadina del mondo. Beh, vero, di fatto Francesca? Dipende, perché sono nata a Roma, ma poi appunto ho... Ma sei cittadina del mondo. Parenti qui, parenti esatto. Giù, vissuto a Londra, insomma. Sì, ho girato parecchio. Allora, diamo il benvenuto a Francesca Romana Fabris. Buonasera, buonasera. Ciao. Agostino, buonasera Maurizio. Buonasera Francesca. Benvenuta a Blu Radio Veneto. E buonasera a tutti gli ascoltatori, si dice così, si in radio, esatto, buonasera sì. Agli ascoltatori. Esattamente. Ti rubo qualche secondo per dire alcune nostre informazioni, cioè per quanto riguarda i numeri telefonici, quello in studio, lo 049-875-6423, mentre se volete mandare sms qui a Francesca, insomma fare qualche domanda, lei sarà felicissima di rispondervi, perché no? Quindi se volete segnarvi il numero per i vostri sms, il 346-2320-033. Se volete risparmiare i soldi dell'sms, come dico sempre io, potete scrivere la nostra home page, cioè di Facebook, cioè Blu Radio Veneto, oppure Blu Radio Veneto Locco Page gestita da Alberto Prisco, oppure meglio ancora nella pagina di Francesca, Francesca Romana Fabris, o anche nella mia, Agostino Spolaore. Io intanto cercherò di curiosare nelle varie pagine per vedere se qualcuno ha scritto che magari sta ascoltando e vuole fare qualche domanda appunto a questa nostra artista che ci è venuta a trovare questa sera. E poi ancora vi ricordo le nostre frequenze per chi ci sta ascoltando tramite radio, ovvero sia 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Se ci state ascoltando tramite internet in streaming, allora vuol dire che siete sintonizzati nella nostra pagina del sito, cioè semplicemente www.bluradioveneto.it, e lì potete ascoltarci 24 ore su 24 assolutamente in diretta, e oltretutto troverete anche tutte le varie informazioni inerenti alla nostra regione, ma non solo, anche recensioni sui nostri artisti che si susseguono qui in queste serate qui a Blu Radio Veneto, e anche recensioni su qualche disco che sta uscendo, che secondo il nostro modestissimo parere magari potrebbe essere interessante per un ascolto. Insomma, trovate un po' di tutto sul nostro sito. Ma prima di tutto troverete anche il player per ascoltare questa diretta, che come tutte le altre dirette questa sera avete modo di ascoltare la musica in acustico di Francesca, che ci viene, Francesca Romana Fabris precisiamo, che ci viene a presentare Traveling, giusto? Sì, il Traveling è il nome del nuovo disco, non so, io... Nuovo EP, sì sì. Sì sì, posso, vado. Vado. Certo, puoi andare, assolutamente. Tra l'altro ho scoperto, che me l'ha detto lei, è una nostra collega, ha fatto radio anche lei. Ha fatto radio, molto importante. Quindi non è timida, Maurizio. No, non vedo, assolutamente non è timida, però è una che suona dappertutto, non può essere timida, vero Francesco? Beh, devi imparare anche a gestire, no? Sicuramente l'emozione c'è sempre, perché il fatto stesso di stare davanti a un pubblico, specialmente quando il pubblico percepisce, è attento, è emozionante. Per me la cosa fondamentale come cantautrice, io scrivo i miei pezzi, appunto musica e parole, è proprio quello di trasmettere qualcosa. Quindi quando poi vedo le persone davanti a me che ascoltano, eccetera, è un'emozione. E quindi insomma devi imparare a gestirla, però è un'emozione che anche ti galvanizza, ti stimola. È quello per cui siamo qui, è quello per cui andiamo avanti tutti i giorni con tutte le difficoltà, perché oggi, come dicevo anche Agostino, cioè fare musica indipendente oggi è una resistenza. Proprio sì, siamo, è giusto, hai detto una cosa. Siamo una resistenza. Tutti i sensi. Sì, anche economica. Soprattutto quella. Soprattutto economica. Parlavo anche con Andrea, che è venuto a trovarci qui, degli Status Symbol, che saranno ospiti la settimana prossima qui a Blu Radio Veneto, appunto di questo discorso, che insomma ci vogliono sempre un sacco di tempo, prima di tutto per fare un disco, e un sacco di soldi. Sì, soprattutto per la promozione, per girare, comunque devi andarlo a promuovere in giro, devi suonare, i viaggi costano. Anche oggi fare il disco non è tanto il fare il disco, perché oggi ci sono dei sistemi per cui si può risparmiare, è più che altro tutto il lavoro che c'è, dopo promuoverlo. Quello costa fatica, e non solo fatica. E lì subentrano gli uffici stampa. Gli uffici stampa, che però devono essere buoni, perché se poi l'ufficio stampa non è buono e ti vuole solo così prendere quei soldini al mese, allora tanto vale che ti fai l'auto ufficio stampa. Quindi musica indipendente significa anche essere indipendenti e farti da manager ufficio stampa, produttore. Beh, noi siamo fortunati in questo senso, se Maurizio penso che sei d'accordo con me, perché collaboriamo con diversi uffici stampa e sono quasi tutti buoni. O tutti buoni, insomma. Cioè, no, sicuramente ce ne sono di non validissimi. Non ho mai sentito lamentele, voglio dire. Insomma. Assolutamente, però ti basta dico che lo facciano con passione, Francesca, questo discorso. No, ma in tanti anni, insomma, di persone strane ne ho conosciute. Sì, in tanti anni, ecco, Francesca ha detto in tanti anni, perché tanti anni che calca le scene, partendo dalla musica tradizionale per arrivare stasera alla musica tua, sì, originale. Però la musica tradizionale ha avuto un impatto importante fondamentale nella tua carriera musicale. Sì, ma soprattutto per l'atteggiamento. Per l'atteggiamento nei confronti della musica. Perché musica tradizionale, musica popolare significa un rapporto diretto, significa una musica più immediata. E anche tra i musicisti non ci sono molti filtri, cioè c'è uno scambio. La musica popolare è al di là dello spartito, è basata sullo scambio del repertorio, tradizione orale più che altro. E, vabbè, io nel mio ambito, avendo fatto musica irlandese per tanto tempo, imparavo i pezzi nei pub con altri musicisti in Italia, in Irlanda, in Inghilterra, dove sono capitava state. Sì, e questo è fondamentale. Quindi al di là del fatto musicale, che mi può essere rimasto o meno in questo nuovo disco, ma è proprio un fatto culturale che mi è rimasto, l'approccio musicale, che per me è fondamentale. Io quando faccio il disco, per me lo scambio con i musicisti è basilare. Io faccio il mio disco, però ci voglio mettere le idee dell'altro musicista che suona con me, e quando suoniamo ci deve essere uno scambio. Non voglio stare lì a stabilire a tavolino tutto quello che deve essere fatto, perché o stabilirlo perché un mercato commerciale decide che lo devo fare in un certo modo. E qui nasce anche il discorso dell'improvvisazione. Sì, assolutamente. Infatti il disco nuovo, appunto, non è folk irlandese, no, ovviamente. Assolutamente no. Però è rimasta questa idea di fare delle canzoni, ma con un'apertura all'improvvisazione. Uno schema aperto, sì, praticamente. Sì. E poi la cosa bella è che, per me è bella, perché è stimolante quando suono, è che ogni volta quando la suono in giro, magari suono con musicisti diversi, e quindi c'è sempre un arricchimento. Io lo lascio, cioè, mi piace chiedere proprio al musicista, ma tu qui, cioè al di là del mio schema del pezzo, che comunque più o meno ci deve essere perché si tratta di canzoni, però tu qui che cosa ci senti, cosa ci metteresti, cosa faresti? E poi si improvvisa, cioè la canzone con appunto le risposte degli strumenti solisti, con un chorus che può essere tutto improvvisato. E questo forse è rimasto del questa mio è un'idea background. Che si usava negli anni 60, quindi dilatare al massimo il pezzo, quindi cambiarlo quasi totalmente, lasciando quel filo di discorso, e poi improvvisare, sì, trovare un sistema, cioè divertirsi, sì, musicalmente, sì, parlando. Assolutamente. Infatti ogni volta che suoniamo è sempre un po' diverso. Certo. Ovviamente io, avendo scritto una canzone, sto lì e devo fare accordi, voce, ed essere un po' la macchina, la, no? Macchina, sì. La macchina che va avanti. Però per me è bellissimo, ci sono stati dei momenti, ma non lo dico perché è il disco mio, eccetera, ma quando l'ho promosso nell'ultimo anno in giro in Italia, per esempio a gennaio ho fatto dei concerti a Roma e fuori Roma con Davide Rinella, che è un armonicista jazzista siciliano, e Francesco Locastro, che è il chitarrista. È uno dei più grossi chitarristi jazz che c'è in giro. Cioè, Francesco Locastro è eccezionale, e adesso vive di base a Londra, insegna lì, poi fa tournée, eccetera. E lui ha registrato le chitarre, sì, in traveling. E è venuto a Roma a fine gennaio, ho detto va, sei qui, organizziamo dei concerti. E ci sono stati dei concerti, al di là dell'audience, della quantità di gente che c'era, veramente io penso che un paio di volte specialmente è stata creata proprio una magia, Sai quando senti proprio l'emozione, cioè, che c'è nell'aria, ma non perché stessi facendo un pezzo mio, perché l'avevo visto, a un certo punto eravamo, non dico in trance, ma proprio stavamo comunicando, e comunicavamo tra di noi e con il pubblico davanti, era bellissimo. Questo per me deve rimanere nella musica, cioè la cosa fondamentale. Certo, certo, siamo perfettamente d'accordo. Vogliamo prendere questo pullman diroccato, dove sì, un bel pullman. Allora, quella è una foto di un vostro, come si dice, con cittadino. Ah sì, Padovano. Padovano. Padovano. Che poi io pure ho zie, esatto, parenti qui, quindi... E che si chiama Massimo Terzo, ha fatto questa foto in Cile. Ed è una foto assolutamente naturale, non è ritoccata. Quella è una foto sovraesposta, diciamo, perché la luce era talmente forte che ha creato quell'effetto un po' di bianco. Che altezza sei qui? Che altura sei? In Cile sì, beh, stava fuori un po' forse, sì. Gli aveva dato proprio droghe naturali. E quello è un cimitero degli autobus in un deserto nel Cile. Ti confesso che quando l'ho vista questa foto, la prima volta che l'ho vista, mi è venuto in mente Jesus Christ Superstar, questo pullman che parte all'inizio che poi arriva in mezzo al deserto. Di solito mi dicono Into the Wild, cioè l'idea di questo pullman rotto, eccetera. Bel film, grande bel film. Però francamente io non ho pensato a queste cose, pensato che il disco si chiamava Traveling, che effettivamente è un viaggio, ma anche un viaggio all'interno di noi stessi, no? Perché sono canzoni, parlano di emozioni, di persone incontrate, e io il disco l'ho dedicato a tutti i miei amici che ho incontrato, soprattutto questi negli ultimi 4 anni in Inghilterra. E My Fellow Travelers li ho chiamati. Tra l'altro ho scritto anche te adesso, Maurizio. Ah, sì, bene. Sì? E Agostino. I miei due nuovi fellow travelers. Ah, bene, bene. Siamo molto onorati. Onorati, sì. Senti, le scopriamo queste emozioni tue, va bene? Mi fa molto piacere. Ascoltiamo la canzone? La prima, Offside. Offside. No, la numero 2. La numero 2? Sì, mi hai scelto la numero 2. Non è... Ah no, io pensavo di fare come prima Offside, però... Vuoi fare Offside dal disco? Sì, si può mettere come prima? Perché io vorrei che questo brano che è Offside, posso spiegarlo? Sì, sì, certamente, lo devi spiegare. Dunque, significa Offside, fuori luogo, fuori gioco. E praticamente parla di un'emozione che a un certo punto non funziona più. Ci viene detto, ok, sei fuori gioco, perché non c'è questo sentimento, quindi parla di una persona che un po' è stata ingannata. Allora, vorrei raccontare un piccolo aneddoto su questo pezzo, perché quando sono stata a Londra ho cominciato poi, dopo un po' che vivevo lì, a scrivere in inglese. Non perché volessi fare per forza, no, la cantautrice deve scrivere in inglese per forza, perché io cantavo anche in italiano, ovviamente, ma perché mi veniva spontaneo scrivere dei pensieri in inglese. E ovviamente lì, essendo molto cara la vita, devi dividere casa con 6/8 persone. E una sera volevo correggere questo pezzo, quindi eravamo nella cucina, io, non è una barzelletta, quindi io, un altro italiano, quindi 2 italiani, un cinese, una rumena e un mezzo americano, mezzo spagnolo. E l'unico inglese, cercavamo di correggere queste frasi, e l'unico inglese che c'era in cucina stava con un dizionario nelle mani e non sapeva che cosa fare, quindi è stata una scena bellissima, perché eravamo tutti al tavolo cercando di correggere Offside, fuori luogo, quindi siamo tutti un po' fuori luogo. L'ascoltiamo. Should I decide to stay or go away? Every choice I take brings a little sorrow. Maybe all is done and I feel I've looked in vain for flower bloom. Take another day, still a bunch of hours. Close my eyes and hands, holding my old thoughts. If this time is water and my reason, only a crazy dream. Still I'm wrong. saw in your eyes all your loneliness, tears and fears. I know every little sorrow and within our skin, we join together our breath and soul. What should I decide to stay or go away? Now I find your eyes deep and blue as sea. Maybe not this time. If you say you want me, I could miss a train. Mi assumo tutte le responsabilità, ho capito. Chiedo umilmente scusa, ho sbagliato io la selezione. Vabbè, insomma, questa era Blue Flower. Sì, beh, era il pezzo che praticamente apre Traveling. Una cosa che dobbiamo dire su questo quando pezzo. Quando vuoi lo facciamo ascoltare comunque. Dopo lo facciamo sentire. Perfetto. Questo pezzo è che ha questo trend latinoamericano, decisamente latinoamericano. Sì, però... io non sono brasiliana. No, sono... però riesce a contagiare le persone che lo sentono, a mio parere. Difatti è primo il pezzo d'apertura, quello è importante, è d'apertura. Vuol dire mettere un pezzo d'apertura, muovere subito l'audience. Certo, gli dai subito un imprinting. A me piaceva questo fatto, metterlo in apertura, perché mi piaceva l'idea dei fiati, e come un intro, no? Come sai quando arriva qualcuno e c'è le trombe, certo, suonano. Ti annunci praticamente. Sì, mi piaceva questa idea. E poi le linee, appunto ho scritto questa linea per tromba e per sax, leggermente armonizzata, pensando un po' alla melodia della strofa, ho scritto questa linea sia all'inizio che poi in mezzo, dove c'è questo stacco strumentale, e questo nonostante sia un pezzo un po' funky, in mezzo appunto c'è un richiamo sempre bossa, quindi esatto, anche sì, nel pezzo dove non c'è il bossa però c'è un richiamo, e non so perché poi tutte le canzoni mi sono venute un pochino con questo ritmo. In realtà due non ce l'hanno un po' questo ritmo nel disco, sono un po' più pop. Però non so, forse perché quando compongo e... Pensi in latinoamericano? No. No, hablo spagnolo. O posso parlare portoghese. Ecco, appunto, visto che... Il bello del fatto di girare. Sì. No, però mi sento molto questo ritmo latin. Non so, forse perché suonando la chitarra classica, amando la musica comunque brasiliana... Però non volevo fare nessun... Cioè, non è che a priori stavo dove a pensare fare volevo questo. Fare questo. No, è venuto fuori così. Sì, perché è un processo creativo che poi comprende appunto vari stadi, e tu vai di pari passo, scrivi la parola, poi riscrivi il ritmo, la metrica, riscrivi l'accordo, e viene fuori così. Visto che la band è d'eccezione, abbiamo citato Locastro, però possiamo citare anche il trombettista, la tromba. Possiamo Nick Walters. Altra gente che vi ha partecipato. Sì, il disco, dunque, allora, questo disco... Ecco, faccio una piccola parentesi, vai, vai. Su Traveling, sempre per quel discorso dei soldi e della musica indipendente. Esattamente. Dunque io ero a Londra e dopo 3 anni, avendo dovuto pagare, perché volevo farlo io, insomma, mi sono presa un diploma al college lì di musica, certo, perché insegnavo chitarra, avevo bisogno di un certificate, eccetera. Non avevo più un soldo, ma proprio... sì, ma nemmeno proprio, sai, dici, sai, no, c'hai qualcosa, niente, zero. I debiti avevo, quindi proprio ero a un livello, però avevo tutti questi pezzi nuovi e chiacchierando al college eccetera si era formato proprio un gruppo di amicizie molto bello, tra cui questo insegnante del college lì che insegna proprio sound sculpture e sound, lui fa il sound engineer e insegna come registrare anche, faceva dei corsi. E venne un giorno da me, io stavo nella mia auletta prove a suonare, dico, boh, vabbè, fammi rimettere a suonare, perché comunque io insistevo, andavo in giro, suonavo, eccetera. e apre la porta e mi fa: dai Francesca, lui aveva sentito il mio precedente EP e dico: ti voglio riregistrare i tuoi pezzi che non sono registrati tanto bene. E aveva perfettamente ragione. E io lo guardo e gli faccio: senti, invece che registrare quelli vecchi, io ho tutte queste canzoni nuove, però non ho un soldo, gli ho fatto. E dice: ah, vuoi che ti... Dico: guarda, io non posso pagare niente. Dice: no, guarda, ma io lo faccio perché mi fa piacere, perché mi piacciono i tuoi pezzi e perché penso che merita una registrazione migliore. Siccome io lo faccio di mestiere, dico, a me non costa niente. Cioè, nel senso, non gli costava, anche perché stavamo usando, poi abbiamo usato le aule del college. Quindi c'è stata una collaborazione anche un po' di nascosto, diciamo. Abbiamo fatto la prima registrazione, poi siamo ritornate in studio da lui, eccetera, dentro le aule del college, cablando, con tutta la cablatura. Quindi due erano in un'aula, due di sotto nello studiolo suo, con i cavi che scendevano. È stata una cosa bellissima e io devo veramente ringraziare, ho trovato delle persone fantastiche. Questa persona, che poi è Mariano Nunez, che è, diciamo, coproduttore con me, perché effettivamente poi mi ha dato tantissime idee sul disco, perché anche lui poi compone, eccetera. E poi c'è stato appunto Nick Walters, che è il trombettista. Lui ha fatto il Trinity, un jazzista, ma fa anche funky, non disdegna di fare il folk, il pop, lavora con tutti. E lo fa sempre in maniera molto sensibile, nel senso, si rende conto del pezzo che ha e quindi si adatta di conseguenza. Cioè, se fa un'improvvisazione su un pezzo mio, è chiaro che la fa diversa, cosa che non è troppo scontata. Ci sono dei musicisti che magari tecnicamente sono eccelsi, però non sono in grado di gestirsi andare in armonia con quello che succede intorno. Hanno la partitura davanti e quella è, non riescono ad andare, sì, al di là della partitura. Sì, insomma, oppure al di là della partitura magari hanno il loro stile, sì, che per carità anche Nick ha il suo stile, però sa nello stesso tempo gestirsi con quello che succede intorno. Stessa cosa Francesco Locastro, un altro musicista, un grandissimo musicista. Lui è eccezionale, poi fa anche lui un po' di tutto, però lui è jazzista. È jazzista, proprio, sì, jazzista. Assolutamente. E lui sta lì da tanti anni, insegna in Inghilterra. Poi c'è stato Jack Law, il contrabbassista. Non mi ricordo. Ah, sì, un altro percussionista uruguaiano, che a un certo punto ha chiamato Mariano perché ha detto: ah, abbiamo bisogno di un hand percussion qua. E quindi su You Got Me c'è questa percussione con le mani. Che è quella che piace a me. Quella è la tua preferita. Sì. Ma tu hai il ritornello, l'hai preso? Sì. È un po' triste il ritornello, perché dice: You got lascio. Me. You got to me, I more than you think. You got me, quindi più che di quello che tu possa pensare. You got me, although I won't have you. Nonostante io non ti avrò. Belli, come si dice a Roma. Poi mi racconterai cos'è, una storia vera questa o un frutto di fantasia? No, è partita da una matrice vera. No, sì. Poi te la racconto. Senti Francesca, sei venuta qui per suonare, sì, dal, sì, vivo. Cosa ci fai sentire adesso? Allora, io volevo farvi sentire appunto una poesia d'amore, diciamo, in italiano, che fa parte del mio disco precedente e si chiama Chiamo l'amore, ed è un... diciamo un bossa. Chiamo l'amore. Chiamalo sogno di assurda realtà, chiamalo senso che un senso non ha. Tempo e ragione di una follia, chiamalo canto di una poesia. Nome di notti, di attese e magie, nome degli occhi che lasciano i sé. E cosa importa a un nome così, con tutto il mondo perduto in un sì. E se per caso mi chiami Forse niente sarà e nel rimpianto morire di te. Prendimi ancora, che ancora lo vuoi. E se per caso mi chiamerai, è una parola, quel nome lo sai, quel nome lo sai, quel nome lo sai, quel nome lo sai. Questo è il disco precedente, dicevi prima. Sì, Frammenti, si chiama Frammenti. 2008 il disco. No, no, no, quello è del gruppo folk. Frammenti l'ho fatto nel 2011. C'è una particolarità in Frammenti, una specie di teatro, una specie di... Sì. Un collegato sì, sì. A questo, vero? Sì, sì, perché spesso quando faccio le cose in Italia, magari in posti che lo possono permettere, tipo associazioni culturali o certo. Librerie, teatri, spesso alterno alle canzoni delle letture, sempre di cose un che reading, ho scritto io. Praticamente. Sì, però non è più musicale, più musicale. Più che ci sono più canzoni, però alcune cose che ho scritto si sposano perfettamente con certe canzoni. Per esempio, quando ho presentato il disco a Roma l'anno scorso, l'ho fatto in un teatro e ho pubblicato anche un piccolo libro che si chiama appunto Chiama l'amore. Ora, non è che parla della storiella d'amore, eccetera, è una scusa per parlare delle dinamiche di quando si conosce qualcuno, dell'attrazione, del perché scegliamo una persona invece che un'altra, e poi di tutte le domande, le problematiche che possono sussistere. Non è né un trattato di psicologia né il romanzo classico, è uno spunto attraverso le descrizioni dell'Irlanda, certo, che... con i viaggi in Irlanda, per parlare appunto delle sensazioni più che altro. Quindi è una storia d'amore però attraverso emozioni, sensazioni, domande. C'è, che ne so, il mito greco anche a un certo punto. È ovviamente... sempre il tuo denominatore questo qua, secondo me, al di là di questo specifico. Delle passioni. Sì, delle passioni. Beh, sai, io penso che un artista debba essere abbastanza onesto. Cioè, secondo me, la cosa migliore che ti può riuscire è quella di scrivere su quello che senti. Io ho fatto anche, per esempio, come si chiama, il Fisherman nel sì. Traveling, certo. Parla della speranza, sì. Ho fatto un altro pezzo che si chiama Acquerello, era legato anche a una poesia che parla di questi tempi in cui viviamo, eccetera. Però effettivamente il mio leitmotiv poi è quello delle emozioni, anche di relazioni, ma non è proprio la relazione in se stessa, è proprio... Alla fine alla base della nostra vita che cosa c'è? Sono le relazioni interpersonali, sì, cioè sì, quello le che emozioni, succede. Le emozioni che succedono che tra le amicizie, certo. Tra un uomo e una donna, tra le donne, tra gli uomini, cioè sono scambi. Sì, ecco, è vero. Scambi. Esattamente. Gli scambi creano musica, creano sensazioni. Assolutamente, se uno è feeling. Capace di vivere, certo. Il feeling è fondamentale. Certo, se uno è capace di viverli in una certa maniera. La cosa che devo dire, infatti, di tutto questo viaggiare, questo girare, questo traveling quello che quando mi chiedono cosa ti è rimasto di più, mi è rimasta sì l'esperienza musicale, eccetera, ma proprio mi è rimasto l'emozione delle persone, cioè essere entrata in contatto con tante persone diverse. Devo dire che poi ho tanti amici anche sparsi, però proprio questo mi ha cresciuto tantissimo. Quindi se uno è in grado di percepirle certe cose, perché bisogna anche essere aperti, non, perché tanti viaggiano mezzo mondo e poi ritornano con nulla di fatto. Certo, certo. Quindi se tu sei in grado anche di metterti in discussione, perché ti devi mettere in discussione, non è che puoi andare lì con la tua bella educazione fatta in Italia e vai fuori e ti aspetti che le cose siano come dici te, come sei abituato tu nella tua bella famigliola. Caro mio, no, no. È diverso, molto diverso. Sì, sì, come si dice a Roma, pedala. Però, e poi ti dà anche tanto, perché se tu ti metti in discussione e ti metti in apertura nei confronti degli altri, hai molto. Agostino ha citato prima il pulma che c'era nella fotografia. Mm-hmm. Secondo me il pulma, oltre al... lui ha citato Jesus Christ Superstar, niente, io ritorno indietro, penso agli anni 60, alla West Coast, questo è il modo di distribuire, di scambiare musicalmente. Mm. Ecco, l'idea forse è partita anche da quello, al di là della fotografia di questo pulma nel deserto cileno. Io, a me è venuto in mente un collegamento con gli anni 60, con la West Coast, con i figli di fiori, quel modo di scambiare, di far musica assolutamente improvvisando. Parto di qui. Sì, lasciare molto l'improvvisazione nelle canzoni, assolutamente, perché tu appunto, dal vivo cioè non ho improvvisi perché è uno schema, però puoi farlo, certo. Non c'è nessuna costrizione. No, io la canzone non la voglio chiudere, non la voglio chiudere totalmente. E questa è un'idea che si sposava benissimo negli anni 60. Sì, sì, ovviamente ci sono dei punti in cui magari io ho scritto un'armonizzazione perché mi piace, ecco, in Blue Flower c'è l'incipit, certo. Con i due col sassofono e tromba, ho dovuto scrivere quella cosa lì. Però non è mia intenzione chiudere le canzoni, anche adesso ho scritto, ve le farò sentire dopo, un paio di pezzi nuovi, che forse sono un pochino più pop, se vogliamo. E anche lì lascio spazio, adesso oggi non ho un improvvisatore, però lascio molto spazio, o lo faccio io con la voce, come avete sentito, o lo apro con gli accordi. E, secondo me la canzone si arricchisce invece che chiudersi, e quello è fondamentale. Comunque l'idea del pulmino mi ha fatto venire in mente appunto questa idea degli anni 60, che poi io da brava... musicista di background folk, io poi ho fatto un viaggio pure col pulmino, esattamente, quello è importante, è stato un viaggio col pulmino anche dall'Italia sono stata in Irlanda, la prima volta che sono andata lì con un gruppo di 9 persone nel pulmino con tutti gli strumenti, abbiamo dormito in macchina, ovviamente, insomma, un soldo spaccato classico sì, ma suonavamo e abbiamo campato un mese, magari suonavamo per strada e quello del locale ci diceva vabbè, venite a suonare, stupendo, guarda, ma poi andavamo nel pub e ci dividevamo gli spicci, bellissimo, fare tutti i conti per cosa ci sì, bellissimo, è la vecchia storia, quasi hippies, no? Esattamente, figli dei fiori, ma guarda, Fricchettoni si è nell'anima, quindi alla fine. Allora se fanno un Woodstock ti chiamano. Speriamo, guarda, io ci andrei di corsa. Però intanto Blu Radio Veneto ti ha chiamato qui. E guarda, sono molto contenta, infatti ti volevo ringraziare. No, la mia frase era per dirti che adesso devi cantare. Ah, ok, devo cantare un altro live. I ringraziamenti ce li facciamo poi, certo. Alla fine. Ah, ok, allora, stavo pensando a un altro pezzo in italiano, se per voi va bene. Se noi ci prendiamo a chiacchierare, perché noi siamo chiacchieroni. Se troviamo poi la spalla che ci aiuta. Sì, lo so, io te l'ho detto, no. Fermami ogni tanto che io chiacchiero tanto. Allora, il prossimo brano si chiama Qualcosa. Qualcosa l'ho scritto pensando a quelle situazioni tipo in cui noi incontriamo qualcuno e pensiamo che dietro un sorriso o uno sguardo più attento c'è qualcos'altro. In realtà non c'è niente. E quindi noi facciamo uno sbaglio, perché magari cominciamo con degli atteggiamenti un po' diversi, il sorrisino, una cosa. Oppure magari c'è, però sai, oggi pare che... sembra che siamo tutti in crisi e quindi le storie non vanno avanti, eccetera. Però la canzone ha un'idea positiva, perché dice vabbè, io almeno ci ho provato e quindi pensavo ci fosse qualcosa, ho fatto un altro sbaglio, che cosa ci posso fare? Questa sta nel disco sempre Frammenti. Se non era niente, ho fatto un altro sbaglio, creando un tempo che non c'è. Ma dietro ad un sorriso ho letto un desiderio, un angolo di pioggia è dietro noi. Qualcosa c'era in quei tuoi occhi attenti, qualcosa che voleva rubare il senso al vento e poi di più sentire l'acqua che cadeva. Qualcosa c'era nel nulla di un sospiro, forse un colore, le note che cercavo è qui per te. Porto la notte, l'acqua, il sale. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, forse non era niente, ho fatto un altro sbaglio, creando un tempo che non c'è. Dietro ad un sorriso ho letto un desiderio, un angolo di pioggia e dietro noi qualcosa c'era in quei tuoi occhi attenti, qualcosa che voleva rubare il senso al vento e poi di più sentire l'acqua che cadeva, che cadeva, che cadeva. Qualcosa, qualcosa c'era nel nulla di un, nel nulla di un sospiro, forse un colore e le note che cercavo qui per te. La notte, l'acqua, il sale, e l'acqua, il sale, sale. Qualcosa c'era, non posso aver sbagliato. Questo è un disco che si trova ancora in circolazione. Allora, questo è un disco che io voglio riregistrare, perché come mi disse Mariano, te lo voglio riregistrare perché non, la qualità non è eccelsa. Effettivamente era un disco fatto un po' in fretta. Però sarà il mio prossimo progetto, insieme alle nuove canzoni che... C'hai già qualcosa in atto? Sì, quest'estate registrerò qualcosa. Ah, ecco, ecco, ecco. Sì, ecco, sì, ecco. Sì, sì. Vedi, abbiamo scoperto qualcosa, intanto. Piano piano, sì. Non sì. posso dire niente ancora, sì. perché vi voglio fare un po' di sorprese, però quest'estate includerò queste, ma anche le nuove che Poi lo sai fatto. Dove devi andare a presentare, vero? A Blu Radio Veneto. Brava, brava. Anzi, faccio lo stacchino. Blu Radio Veneto. Per voi poi lo registriamo, e poi lo registriamo, e prendiamo nota immediatamente. A proposito di questo pezzo che ho sentito precedentemente, qualcosa l'ho sentito da frammenti, sì. c'è una costruzione delle voci molto interessante, un continuo saliscenti, sì. con un ritmo jazzato, leggermente jazzato, che è molto interessante, molto particolare, molto avvolgente. Qua chiaramente sei da sola. Io ho fatto solo alla fine, ho fatto infatti la seconda voce. Esattamente, c'è una serie di voci che si rincorrono. E quello è molto interessante come costruzione. L'idea è stata tua o del Manuel? Si chiama Manuel? No, ma lui non c'entra niente con questo primo disco. Questo era quello che aveva sentito e mi voleva riregistrare. No, no, assolutamente mia. Anzi, quando ho fatto sentire le due voci, esattamente, c'erano molte persone che mi hanno detto: ah, no, questo non è come si dice, non è proprio counter melody, non è proprio come si dice, il contrappunto, sì. Non è proprio armonizzata. E io gli ho detto: senti. Fermi tutti. Allora, c'è il mio nome sul disco. Appunto. Il pezzo è mio, la canzone è mia. Boom. Ho fatto così. Ho fatto così, basta, mi piaceva. Chiuso. E infatti, quando all'inizio poi lo dovevo fare da sola, ho deciso che comunque dovevo fare la seconda voce alla fine. Però fare la seconda voce e nello stesso tempo. Allora, forse non era niente. È tutta spostata la seconda voce rispetto sì. al ritmo. All'inizio mica ci riuscivo. Ho detto: ma guarda che ho scritto una cosa e nemmeno riesco a fare. E dal vivo come lo puoi fare con una tua collega che ti dà una mano? No, dal vivo. Come si fa? Un dal pezzo vivo, simile. Io faccio la seconda voce, faccio fare l'incipit al solista. Ah, ho capito. Quindi ho capito. Anche se non dice le parole, o fa qualche nota della frase, la sostituisce. Oppure improvvisa proprio, però me lo dà sul primo battere, quindi io poi faccio la risposta. Quindi che ne so. Forse non era niente, ho fatto un altro sbaglio. Vedi, cosa si scoprono tutti i segreti per arrangiare le canzoni. Sì, guarda, fra un po' per mancanza di soldi farò tutto io, cioè faccio anche il solista all'inizio. Senti, Francesca, quanti anni hai praticamente di esperienza musicale alle spalle? Tanti, dunque, perché tu sei giovanissima, però c'è un'esperienza notevole. Non sono proprio giovanissima, me li porto meglio di quello. No, però considera che ho fatto, almeno che suono, vabbè, questo progetto è abbastanza recente, proprio di canzoni mie originali, dal 2008, cioè non recentissimo, però poi l'ho, diciamo, approfondito quando sono stata fuori, quindi dal 2008 al 2012 sono stata in Inghilterra, mi sono concentrata su questa cosa. Prima ho fatto comunque molto folk, quindi già dal 2000, ma che dico dal 2000, dal 98. Dal 98 ho fatto musica folk. Esatto. Sì, che quindi, giri dappertutto. E ho fatto un gruppo di musica di base, stavo a Roma, però giravo spesso. Ho fatto un gruppo di musica balcanica, quindi facevamo l'orchestrina. Come si chiamava il gruppo? Ale Breeder. Ale Breeder, sì. Ale Breeder è stato un gruppo storico romano, abbiamo iniziato la musica balcanica e klezmer, adesso ce ne sono tantissimi. Vabbè, c'erano i Klezro Im, ovviamente, che fanno più un po' di jazz, sì, diciamo. Noi eravamo proprio l'orchestrina tradizionale e con loro l'abbiamo fatto parecchio tempo. E contemporaneamente ho iniziato a fare musica irlandese nei pub, perché a Roma ci sono dei pub storici dove si facevano le session anche 15 anni fa. Quindi diciamo che sì, più di 15 anni. Che giri. Sì, che suono. Che suoni, giro, che suoni, sì, che suoni. Poi sì, ho vissuto un po' fuori. Diciamo, la permanenza più lunga che ho fatto è stata comunque negli UK, cioè Inghilterra e Irlanda. Ma tu sei una suonatrice di chitarra. Come sei stata inserita in un gruppo che faceva musica irlandese, chitarra? No, non è che sono stata inserita. Io l'ho No, l'hai creato te. E poi quando mi sono appassionata di questa musica, ovviamente, che cosa fai? Tu ti appassioni di una musica tradizionale che non è la tua tradizione, certo, e cominci a viaggiare nel posto dove la fanno. Quindi io ho fatto il primo viaggio in Irlanda, sono rimasta estasiata. Quindi la musica mi è piaciuta tantissimo in Irlanda, la musica è eccezionale, e ho cominciato a tornarci, se sono tornata almeno 10 volte. Quindi mi sono... Sei diventata irlandese doc, o quasi. Ma guarda, devo dire una cosa, non so se il mio modo di suonare sia perfettamente tradizionale, eccetera, però a Londra io sono sopravvissuta i primi 2 anni grazie alla comunità irlandese, cioè mi hanno proprio adottato. Io campavo con le session di musica irlandese. Chiamavano e via. Mi chiamavano per le function, le session, certo, eccetera, e per me era un onore, perché erano persone con cui io prima magari chiamavo e pagavo per venire in Italia a suonare. E lì però vabbè, ci sono musicisti eccezionali, sono anche non eccezionali, però ecco, ma l'eccezione fa il gruppo, hai capito? Sì, però lì c'è molta apertura, quindi si suona tutti insieme, poi c'è il pub, ci sono tantissimi pub dove si fanno le session, si scambia il repertorio, fai orecchio. Io ho fatto non conosco la maggior parte dei titoli dei pezzi che faccio di musica irlandese, però ormai sei entrato nel ritmo, nel repertorio, quindi ce l'hai, insomma. Ne ascoltiamo uno? Dal disco, dal mio precedente gruppo di musica folk, film, come un gruppo importante, dovevo sottolinearlo, questo è un disco importante. Sentiamo il pezzo e ma poi parliamo. Sì, sì, sì. Thank you. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Tutta un'altra Francesca. Maurizio. Sì, però hai ragione perfettamente, Agostino, tutta un'altra Francesca. Però c'è sempre qualcosa della Francesca che, sì, è folk, per carità, però cerca sempre di allargare il folk per portare a un sentiero che poi è arrivato al disco, ai dischi da solista, cioè la Francesca da solista. Cioè il folk esiste, per carità, è una parte integrante della tua carriera musicale, che ancora esiste. Sì, sì, assolutamente. Adesso parto la prossima settimana, quindi, vado in Sicilia con un gruppo sempre di musica irlandese. È solo leggermente parcheggiata per oggi o per qualche altro giorno. Però questa volere un po' sviare, però allontanarti leggermente per fare cose di tuo, e c'è anche in questo pezzo, anche se è tradizionale, c'è l'idea, secondo me. Sì, sì, per esempio questo si chiama Buttermilk, che è un tradizionale, sì. Si suona anche nei pub, certo, eccetera. Però se tu pensi, anche a un certo punto io ho messo degli accordi un po' jazz, esattamente, jazzati. All'inizio, no, c'è l'attacco che fa... Adesso la chitarra classica non viene come con l'acustica. E questi sono quelli aperti che vanno bene. E poi a un certo punto faccio invece gli accordi... Un po' blues... Un po' di blues, un po' una tinta diversa, però ci stanno bene. Certo, si stanno bene. E alla fine funzionano. E tu, quindi, hai citato i Pentagon prima a microfono spento. Sì, adoro le loro canzoni. La jazz e il blues era assieme al folk nei Pentagon, sì, sì. Un gruppo straordinario. Sì, sì, un gruppo straordinario. Io canto sempre Cruel Sister. Cruel Sister, un altro pezzo straordinario. È bellissimo. Incredibile, incredibile. Perché hanno praticamente messo tanti stili. Il folk era all'inizio, si era sempre là davanti, però lo stile poi si è allargato, si è ristretto a seconda. Certo, devi stare attento, perché è facile poi fare passare subito dall'altra parte, sì, fai una, come si dice, una pescionata. Ma se uno è bravo, non ha, può passare anche dall'altra parte, però sempre in una certa maniera. Sì, dargli quel poco che lo fa arricchire, ci metti anche del tuo, perché... Ripeto, la musica tradizionale popolare è fatta da gente che la suona e la rivisita in continuazione. Appunto. Cioè, le stesse persone che suonano e che hanno scritto il tune, poi lo fanno in maniera diversa ogni volta. Tant'è che di uno stesso pezzo, se tu vai, per esempio, c'è questo sito thesession.org, che tutti gli appassionati che ci stanno ascoltando di musica irlandese conosceranno, perché ormai si trovano tutte le partiture. Ma se tu metti un titolo, si trovano almeno 5 versioni della cosa. E quando vai al pub dello stesso pezzo, quando vai al pub a suonarlo, stai tranquillo che troverai altri 3 irlandesi che lo fanno in maniera diversa. Quindi, senza per forza proprio sradicarlo completamente, perché alla fine, insomma, questo è un disco, questo del gruppo FIM, appunto, con cui ho girato parecchio fino a un paio d'anni fa, senza sradicarlo completamente, però dargli qualcosa di tuo, penso che sia anche giusto, anche perché sennò facciamo la copia della copia della copia. Quello è male, fare copia della copia della copia, poi diventa sempre una copia. Certo, certo. Quello è il motivo, cioè... Almeno secondo noi, dopo chiaramente le idee possono essere diverse. Chi ama particolarmente le copie non deve andare oltre a quel cosa, deve essere prefissato così. Però non è proprio, secondo me la musica deve essere sempre... La musica deve essere movimento. È movimento, esattamente. Devi aggiungere qualcosa, di essere creativo in qualche maniera. Specialmente su, appunto, parliamo di canzoni che hanno aperture jazz, parliamo di musica folk... Non so, io la vedo così. Poi ben venga lo studio pedistico di una tradizione, ma quella è etnomusicologia, quella è un'altra cosa. Bene, abbiamo spiegato bene, secondo me, le cose. È un po' difficile, un po' complesso, perché qualcuno dirà, tirerà le orecchie, no, perché hai toccato la tradizione. Ma a primo modo magari... Guarda, sono abituata, non c'è problema. Avremo modo di sviluppare questa cosa, questa idea con la musica folk, se ci viene in irlandese, se ci viene, sì, a trovare... verrà con il gruppo, chiaramente. Siamo già messi d'accordo. Adesso vado in Sicilia con questo violinista molto bravo di Salerno, che si chiama Osvaldo Costabile. Lui è polistrumentista, ha vissuto in Francia, è andato in Irlanda anche lui tante volte. E la flautista, che si chiama Alice Cade, che è una mia cara amica, appunto ci ho suonato per 3-4 anni a Londra. E lei suona flauto irlandese, che appunto il flauto, sì. Lei non ha le chiavi sul flauto, cioè con e senza chiavi, però è quello di traverso, con i fori proprio. E le Ilian Pipes si suona, che è, sì, questa cornamusa irlandese a braccio, diciamo, no? Per chi non lo sapesse, lo dico alla radio. E poi fa anche le danze, ed è divertente, perché poi lei sostanzialmente si vogliono divertire. Quando suoni devi improvvisare, ti devi divertire, cioè lei è la prima che prende improvvisa sui pezzi. Cioè, ovviamente non è che si mette a fare Van Halen mentre fa il pezzo di musica tradizionale, però varia. Questo è importante, lo fanno loro, perché non lo possiamo fare noi, che più, cioè, possiamo mettere di cose diverse, dato che veniamo da altre tradizioni anche. Certo, mi appassiona questa cosa. lo vedo. Si stavo ascoltando a bocca aperta. Io però ti voglio sentire adesso suonare, muovere la bocca e muovere le mani. Cosa ci fai sentire? Allora, io volevo farvi sentire una canzone che io la trovo molto divertente, perché l'ho fatta per divertirmi effettivamente, ed è una specie di blues che in realtà ha un ritmo sempre così un po' up, un po' swang, se vogliamo, no? E questo pezzo si chiama The Only One For Me, tra parentesi, Not, e parla, ed è ispirato a quei blues dove si dice quanto ti voglio, quanto ti amo, sei l'unico per me, sei l'unica per me, io senza di te, e parlano anche di sesso, no? Dice quanto ti vorrei, eccetera. E questo pezzo fa tutto un panegirico così all'inizio, e poi alla fine dice sì, vabbè, solo con te fare certe cose, vabbè, ti amo da morire, vabbè, ma anche avanti il prossimo. E quindi The Only One For Me, Not. Ora, siccome non ho un solista qui con me, io chiederei poi a Maurizio di farmi il ritmo mentre io faccio da solo. Non di fare questi problemi, per carità, perché Maurizio, per io cercherò di farlo, ma ieri ho fatto il punk, fate tutto voi ragazzi, ho fatto il punk melodico. Non sono mica io che sono nella fossa di leoni. Ma la fossa di leoni prevede anche questo. La prossima volta gli facciamo mettere la cresta direttamente. Sì, poi lo fotografo anche. Ecco, appunto, perché loro non vedono gli ascoltatori. Però vedono le foto poi. Perfetto. Adesso vengo a fotografarmi. Maurizio, sei finito, lo sai? Lo so, purtroppo sì. Ok, so The Only One For Me, Not, quindi il ritmo. Vabbè, intanto inizio con la produzione. Sì, sì, inizia di sì. Ok. Maybe you call it all, but I say I'm crazy wanting you. Feeling I'm looking for your hands, touch me, I would like to drift to my eye, to my impulse of you. Certain you are the only one, with you no one else, I will make love like that. Come here and let's get tired. I give to your lips all my honey. Really, you were so good to play, so passionate, hey, darling. You were so special tonight. Something that I never felt, something very new for me, truly. You are my lover. Okay. 3, 4. Can you go away? You know I'm always in a hurry, that's me later on. Sorry, I want to stay alone. Yeah, love you till I die. Welcome the next one. Beh, sei stata bravissima, veramente. Me lo fai, me lo ripeti quello l'incontro fra le corde della chitarra e la voce della Francesca? Vai. Perché di solito ci metto il ritmo sotto e mi serviva questo schioppo di dita e lui, ho visto che ha iniziato, poi si è fermato e quindi ho detto boh, faccio, no, io. Meglio. No, me lo puoi rifare? Esatto. Boh, con delle piccole varianti. Con delle piccole, sempre con delle perfetto, perfetto. E questa è proprio l'improvvisazione al 100%. Sì, poi vi diverto. Appunto, se c'ho magari un altro, qualche persona meglio di me, sicuramente, no, ti diverto. Anche un percussionista. Spesso sono andata solo col percussionista. Ed è molto divertente, perché se c'è una buona percussione, anche hand percussion, cioè metti un cajon, sì, o una, è molto divertente, perché posso, è carino anche senza bisogno di avere per forza gli accordi sotto, no? Io alcune volte lo faccio, che ne so, e mi piace questa, mi diverte. Io non sono né una scat singer né un chitarrista, infatti sul disco ho fatto fare i soli, sì, a Francesco Locastro, certo, che... Però dove sta scritto che non mi posso divertire? Ah no, nessuna parte, assolutamente nessuna parte. Ma aver suonato e girato il mondo musicale, Irlanda, Portogallo, Inghilterra, ti è servito decisamente come bagaglio, come sviluppo? Umano sicuramente. Umano e anche musicale. Musicale, perché non, sì, perché non solamente il folk sì, era importante, però hai sviluppato altre cose con il folk. Non l'hai fatto vedere, l'hai fatto sentire adesso con la tua carriera da solista, però già secondo me quando suonavi il folk l'idea già si sviluppava, si aveva. Certo, questo sempre per il discorso di prima, dipende come tu vuoi fare le cose. E, per esempio, sui pezzi tradizionali io spesso mi inventavo altre cose, che ne ti so, la facevano, cioè... inventare, te lo concedevano gli altri. Beh, inventava. Guarda, io se trovavo un gruppo dove era tutto castrante me ne andavo direttamente, quindi alla fine invece ho trovato questo gruppo film con cui abbiamo girato veramente credo 5 anni, abbiamo fatto tutti i festival italiani. Avete fatto folk, una compilation? Abbiamo fatto due dischi. Questo qui che vi ho lasciato in, sì, radio, che si chiama Rooibos e Disappunti, è stato quello più importante. Tra l'altro questo disco è stato inserito in due compilation americane e che stanno vendendo. E mi dicevi, sì, che sì, stanno girando bene. Si chiama bene, di Mark Gunn, che si chiama Celtic Podcast, insomma, è una cosa di una raccolta, ma dove comunque nella raccolta, l'ultima raccolta, sono solo pezzi del nostro disco, quindi è positivo. È un grande onore per voi. Per noi tantissimo, cioè ogni tanto arriva appunto tramite CD Baby, sì, tramite iTunes, perché ormai è tutto digitale, certo, però mi arriva la letterina sua, che comunque è preciso, ogni 6 mesi ci dà i diritti, l'accredito, e per noi è fondamentale, cioè non di soldi, proprio come soddisfazione ma assolutamente. Ma c'è quella qualche possibilità di correre, di volare negli Stati Uniti per questo? Ma guarda, io sono aperta a tutto, me lo auguro. Adesso anche questo disco Traveling, grazie appunto a questi mezzi telematici, Twitter, iTunes, eccetera, faccio un po' di pubblicità e sto vendendo più in Inghilterra e America che in Italia. In Italia. Perché lì, se gli piace un pezzo, ripeto, prendono e lo scaricano, lo comprano. Certo. Non è che hanno bisogno di quello che ti dice compralo. No, lo fanno autonomamente. E la cosa mi riempie di soddisfazioni, perché è una cosa autoprodotta, con veramente autopromozione, eccetera, in assoluta, con tutti i miei difetti, però è genuina. Cioè, ho fatto quello che potevo fare, penso al meglio di quello che potevo, in assoluta indipendenza e genuinità. Quindi questo per me, se uno dall'America mi compra il disco e mi scrive e mi ringrazia su internet, per me quello vale più di 100.000 persone. Poi certo, se arrivasse qualche soldo non è che mi dispiacerebbe. Molti grossi musicisti hanno cominciato così, autoproducendosi, e adesso con le tecnologie moderne spesso e volentieri lanciando il prodotto negli Stati Uniti, e poi li hanno chiamati perché qualcosa funzionava. Non si sa mai. Voi spargete la voce. Siamo qui per questo. Senti Francesca, cosa ci ascoltiamo dal disco? Vuoi sentire Offside o vuoi ascoltare qualcos'altro? No, dato che ho raccontato la storiella di Offside e poi faremo le domande su internet se gli ascoltatori se la ricordano, quella della barzelletta, due italiani e un cinese. Io vorrei sentire Offside. Stavolta sono pronto, eh. Sei pronto? La facciamo ascoltare. Allora, qui il tempo il tempo vola da matti, mancano una quindicina di minuti abbondanti alla fine della trasmissione. Io avrei veramente un sacco di domande, anche perché abbiamo capito sia io che Maurizio che tu sei una persona che ha un'esperienza alle spalle notevole, quindi possiamo attingere un sacco di punti di vista per capire insomma qual è il tuo aspetto, insomma il tuo aspetto umano e anche la tua discografia musicale, insomma sì, ovviamente si può parlare. Io volevo comunque farti complimenti su questo pezzo e su tutto il disco, perché la tromba, come ti ho già detto tante volte al telefono, mi piace da matti. Bravo Nick, è veramente bravo, è molto sensibile, come si dice, sensibile, sì, sensibile, sì, sensibile, sensibile, vero. Sì. Che lei è sensitive, io dico, sì. Sensitive musician, ma cosa simile, dai. Sì, cioè, infatti riesce a praticamente a sviluppare un tema bene, insomma, sì, su, si amalgama bene, con le tue idee, sì, con quello che succede intorno, esattamente. E quindi qui ha suonato in questo pezzo specialmente, ma insomma anche in tutto il disco, insomma è veramente molto molto bravo. E poi, se mi permetti, prima di far ascoltare la prossima canzone, che tra l'altro vi già vi annuncio che ci fa due regali, anzi vi fa a voi fans due regali, perché vi farà sentire due inediti, io volevo parlare un attimino di un progetto di cui tu fai parte, che è un progetto a me molto caro, perché ci sono degli amici carissimi all'interno, del Salotto dei Cantautori. Sì, sì. Oltretutto io ti ho conosciuto grazie a Vito Muschitello, che è l'ideatore del Salotto Cantautori. Cantautori. Ci siamo conosciuti, tu ed io, a Sanremo, al Festival di Sanremo, e tu suonavi per la strada. Sì, sì, sì, sì, noi eravamo andati lì perché a un certo punto io ho conosciuto Vito a Roma in una delle serate del Salotto Cantautori, perché questo progetto è nato tanti anni fa grazie all'idea di questo musicista cantautore pugliese di promuovere la musica cantautorale indipendente. E quindi una volta ogni due mesi, tre mesi, quando ci si riesce, perché ripeto è una cosa assolutamente autofinanziata, quindi non ci sono soldi, si trova una città e si fa il Salotto Cantautori, cioè una decina di cantautori si riuniscono e suonano i propri pezzi nella città designata. E a un certo punto ho fatto questa serata con il Salotto Cantautori. Vito era rimasto molto contento dei due pezzi che avevo fatto, aveva sentito la mia musica, mi ha telefonato e ha detto: guarda, sto organizzando una spedizione a Sanremo e dobbiamo andare lì e dobbiamo suonare per le radio, per i locali, ma soprattutto per la strada di fronte all'Ariston e promuovere il Salotto Cantautori. Quindi siamo andati lì a Sanremo, sette cantautori con uno striscione, un'amplificazione da strada, e abbiamo fatto i nostri pezzi di fronte all'Ariston, cioè al leggermente tempio, spostati. Al tempio, allora. Sì, leggermente spostati, a promuovere la nostra musica e soprattutto l'iniziativa, cioè dicendo esistono anche altre realtà, certo, che non stanno sotto certi meccanismi o comunque non riesce a uscire, perché purtroppo sappiamo che spesso e volentieri certi canali sono preclusi a un certo tipo di musica, se tu non stai nelle leggi del mercato, se tu non stai sotto l'ala protettiva di qualcuno, purtroppo è così, parliamoci chiaro. Poi ci sono anche valenti artisti, per carità, a Sanremo ci sono anche bravi musicisti, cantanti, però insomma noi eravamo andati lì a non andare contro Sanremo, ma a proporre un'alternativa. E praticamente abbiamo incontrato Agostino mentre facevamo le nostre performance per strada. E di caso. Sì, beh, con te, ma io ero già d'accordo con Vito, che ci conoscevamo. Poi dovevo salutare Nina, insomma, che è un'altra cantautrice. Assolutamente, adesso vado a Roma, la incontro e dico: senti, Agostino ti vuole in radio. Ma lei lo sa. Sì, da molto tempo che l'aspetto. È più di un anno, sai. Ah, io sì? Sì, anche con Vito è moltissimo tempo che sono in contatto. Infatti lui mi vorrebbe anche giù lì a Roma a fare da presentatore, a fare proprio veramente insomma, se si può si farà. Organizziamo una trasferta, riprendiamo il pulmino, dai. Ah sì, vengo giù io stavolta. dai. Mi porto con me il nonnetto qui di Blu Radio Vento, cioè Maurizio, e magari facciamo una serata insieme. Sarebbe, ma come no, guarda, sarebbe che molto veramente bello. Vito ci terrebbe da matti, me l'aveva chiesto da fare anche lì a Sanremo. Adesso il 15 giugno c'è il prossimo appuntamento a Roma del Salotto Cantautori. Io purtroppo non ci sarò, perché io che volevo venire per te, non ci sei, e allora sto a casa. Io sarò purtroppo in Sicilia a suonare sulla spiaggia, e che devo fare? purtroppo. Senti, londinese, italo, siciliana, cosa ti fai ascoltare adesso? Beh, è italo-veneta. Giusto. E tra l'altro ti aspetta l'acqua alta stasera, sì. Sì, mi ha mandato un messaggio adesso mia zia dicendo che ci sono le sirene dell'acqua alta a Venezia, e quindi mi ha detto: fatti dare dei sacchi di l'immondizia ad Agostino della radio. Quindi io adesso stavamo prima dell'inizio della trasmissione provando a tagliare i sacchi dell'immondizia. Ok, cosa ci fai ascoltare adesso? Allora, dai, volevo farvi ascoltare uno dei due inediti. Questa canzone si chiama Falling Down. In realtà E l'argomento è un po' così, parlando sempre di passioni, si parla di una passione per una persona sbagliata che comunque purtroppo era molto invischiata in sostanze pesanti, droghe pesanti, eccetera. E il problema non è tanto la droga in se stessa, ma come ti trasforma. Cioè, purtroppo, da esperienze dirette che penso molti di noi hanno avuto, diventi assolutamente egoista, non esiste nient'altro nella tua vita. E quindi questa canzone significa cadere giù, però io dico, sì, ti vedo che stai cadendo giù, ma io ti ho dato tutto quello che potevo e adesso io non ci sono più. Quindi, Falling Down. Non la commentiamo dopo, quando finisce la canzone, perché ci attacchiamo subito a You Got Me. Perché... Ok, You Got Me invece dal disco è una canzone che parla di una relazione quando appunto triste. Purtroppo finisce e noi però questa sensazione rimane, non ci possiamo fare niente. Quindi è la sincerità fatta persona che dice: anche se tu non mi vuoi, non ci sarà più niente, io tu mi hai comunque e ci sarò sempre. Ascoltiamo Blu Radio Veneto. What I thought I could have done, what I thought I could have changed. There's a story inside your eyes. It's a secret you don't tell me. Took a flight and came to you just because you said you love me. All the troubles I went through didn't matter, not the journey. You're falling down far from me. You are falling down, but I'm not there anymore. Where the fuck's behind your words? Where the love you could have shown me? You were taken by yourself, and the feelings turned into ice. I was there for you to help, but you look for something better. Being so high and don't realize where the darkness took you away. You're falling down far from me. You are falling down, but I'm not there anymore. The fuck's behind your words? Where the love you could have shown me? You were taken by yourself, and the feelings turned into ice. I was there for you to help, but you look for something better. Being so high and don't realize where the darkness took you away. What I thought I could have done, what I thought I could have changed. There's a story inside your eyes. It's a secret you don't tell me. Took a flight and came to you just because you said you love me. All the troubles I went through didn't matter, not the journey. You're falling down far from me. are falling down, but I'm not there anymore. You are falling down, but I'm not there anymore, boy. It's more warm and safe, though you're still Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo sentito due facce. La prima faccia è quella inedita, che non abbiamo ascoltato prima, che è la ballad. Io l'ho giudicata una ballad. Sì, sì. Francesca diceva, sì, la ballad, però l'ho fatta con la chitarra, che non è la chitarra che potevo utilizzare, ma stasera ho questa chitarra con le corde in nylon. Però è una grande ballad. Una ballad macchiata, se si può dire così, leggermente di folk, ma solo leggermente. Sì, quello è un pezzo che di solito suono con la chitarra acustica, perché poi ecco quando fai, di solito lo faccio con un altro solista che appunto in quel momento apre, e quando c'è quella piccola improvvisazione, mi piaceva farla ecco tipo ballad che poi ritornava a quel ritmo, però nel momento centrale, che dare proprio l'idea dello stare fuori poi, se vuoi, no? Sì, dello stare fuori testo con, da quello, dice quello. Dice quello, falling down, because you thought it was better feeling high. E quindi sentirsi in alto, sentirsi fuori, no? Sì, la falling down già dà una... è forte, stare fuori, già quello indica determinate cose. Cadere giù proprio. Esattamente. Sì, però di solito lo suono con l'acustica, perché con l'acustica... Beh, l'hai fatta bene in ogni caso, dai, assolutamente. Vabbè, dai, magari un'altra volta facciamo delle improvvisazioni. Magari un'altra volta fai te le improvvisazioni sempre con le dita. Allora, se sei a posto, assolutamente a posto. Allora falling down proprio. Veramente. Francesca, siamo arrivati alla fine perché è arrivato Renato, ci dà il cambio con la sua musica hard rock e il suo heavy metal. I tuoi dati, cioè dove si può trovare il disco, il tuo sito, se qualcuno ti volesse contattare, il numero di telefono, no? Ti entro... No, quello no. No, quello a voi solo, dai. Ecco. Anche perché mi era rimasta una cena in sospeso. Dovevamo andare a cena stasera. Ciò. La avanzi. Allora, i tuoi dati. Allora, per chi volesse più informazioni su di me, sono Francesca Romana, non ho messo pure il cognome perché era troppo lungo, quindi c'è la pagina artista su Facebook, Francesca Romana, vedete la mia foto, oppure sono Francesca Romana Fabris, però la pagina artista con tutte le recensioni del disco, con la rassegna stampa, eccetera, è proprio Francesca Romana. Farò a breve anche un sito che magari è un po' più decente, che Facebook è molto utile, però... purtroppo ha dei limiti. Se volete ascoltare invece i brani, c'è il sito SoundCloud, ma tutti questi link li trovate comunque nella pagina Facebook sempre, quindi soundcloud.com/Francesca Romana, ci sono la maggior parte dei miei brani. Se poi mi volete dare qualche soldo e contribuire a questa musica indipendente, i siti sono iTunes, trovate il mio disco Traveling, Francesca Romana, Fabris, CD Baby, Amazon, insomma tutti i siti preposti alla vendita online del disco. Mi sembra basta, insomma, se volete farmi suonare, avete delle grandi idee. Se qualcuno ti contatta, non so, via Facebook e ti dice posso avere il tuo disco, tu glielo spedisci, voglio dire. Ovviamente, io allora in Italia preferisco farlo io, ovviamente, perché ci sono meno costi, perché sennò bisogna andare CD Baby che sta in America, prende la percentuale e quindi costa di più a voi utenti. Se no ve lo scaricate su iTunes come volete, oppure se volete il CD fisico si trova in alcuni negozi di dischi a Roma e in Sicilia. Qui non l'ho portati tanti perché ero con una valigia, la chitarra, andando da una zia a Venezia che non vedevo da 20 anni, quindi era un po' complicato. I prossimi concerti? Dunque, adesso mi dedicherò questa settimana al progetto Folk. Sabato sono a Roma, e la mia musica, con un altro chitarrista, Andrea Moriconi, molto bravo, un jazzista, e farò live con i miei pezzi. Invece, sabato 25 a Roma, si chiama Bembo Pub, chi stesse magari si trovasse a Roma, è invitato. È gratis, quindi potete venire, mi offrite la birra. Ecco. E invece dal 12 al 20 giugno sarò in Sicilia con appunto un progetto di musica irlandese con Osvaldo Costabile al violino, Alice Cade al flauto e Lucrezia Testa al boran, e faremo concerti tra Palermo, Agrigento, cioè metterò tutto sempre online, quindi se volete informazioni poi tutto online. L'ultima canzone ci fai ascoltare per salutarci, perché poi c'è il treno che ti sta aspettando. Sì, allora innanzitutto volevo ringraziarvi moltissimo per questo invito a Radio Blu Veneto. Blu Radio Veneto. Blu Radio Veneto, ma sbaglio sempre. ti ringrazio anche perché veramente devo dire Agostino è stato un tesoro, proprio lui è gentilissimo e si preoccupa dei dettagli, cosa che non fanno molti, addirittura insomma io ho dei problemi, il passaggio... veramente un tesoro. Quindi grazie mille non solo per la professionalità, ma anche per l'umanità e la gentilezza. Grazie, mi commuovi così. Ecco, vabbè, basta, dopo le lacrimucce. Ringrazio Maurizio tantissimo perché ha fatto delle recensioni bellissime che io mi rivenderò subito sul mio disco. L'ultimo brano si chiama My Trouble With You, è un inedito che registrerò quest'estate insieme ad altri brani, il mio nuovo disco, e è per voi ed è una specie di tango della gelosia che parla di quando noi praticamente diciamo: ma sì, abbiamo una relazione aperta, puoi stare con chi vuoi, con chi ti pare, non mi importa, ci vediamo, stiamo insieme quando ci vediamo. E questo vale finché non vediamo l'altra persona con qualcun altro e andiamo fuori di testa. Bene, okay. Maurizio, chiudiamo velocemente perché certo, poi il treno non aspetta purtroppo. Allora, l'appuntamento per quanto mi riguarda è a giovedì prossimo, sempre qui a Bruno Di Veneto, con gli Status Symbol, che presenteranno il loro nuovissimo disco che deve, pensate, ancora uscire, uscirà dopo qualche giorno, che lo presentano proprio in anteprima assoluta qui a Bruno Di Veneto. Ci sono degli inediti, ci sono delle cover dedicate ai 50 anni dei Nomadi con Andrea, che è venuto a trovarci questa sera, ma comunque l'appuntamento e appunto con gli Status Symbol Band. Tu invece, Maurizio? Sì, martedì con Flavio avremo una band amica di Francesca. Ah, Nico Maraia. Nico Maraia, esattamente. Proporrà la sua musica martedì con Flavio e poi via a seguire. Francesca, non perché hai parlato bene di me, ma sai che ho un affetto grande per te, il mio abbraccio e un grande grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi, grazie a voi. My Trouble With You. Prego. It's a hard life to deal with. Every day is a race, trying to follow desires. I fell into a mess, but there is some more trouble. Really, I cannot contain. Is my thinking valuable? You could love someone else. Yes, I told you I don't care. We can manage like that. We are friends and no more. Just make love when we want. It's a perfect relation. So much freedom we had. But the end of the day, I was missing you so. So I thought I could face our staying so far. Didn't matter with who, you were spending your time. Then I saw you with her, you were holding so tight. Walking down by the river, like two lovers would do. If I told you I don't care, you could meet someone else. I'm not yours, you're not mine. Let us free our lives. But then on near the river, you were holding her hands. And I suddenly realized how much jealous I am. Day die, da da day die. Day die, da da day die. It's a hard life to deal with. Every day is a race, trying to follow desires. I fell into a mess, but there is some more trouble. Really, I cannot contain. Is my thinking valuable? You could love someone else. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Grazie.